Assestato al sistema dal profondo del ghetto spirituale in cui voglio relegarci ad affogare in quel mare di capire in passato è solo di quella morale. Sì, falso opportunista che usa la censura come arma di difesa e sparavista su quanti, credimi non tanti, rifiutano ogni forma di controllo messo in atto dai potenti, dai signori che controllano l'opinione, da quelli che correggono le bozze del copione chiamato informazione in scena tutti i giorni sugli schermi di un'intera nazione. Questo è il veleno che ci vogliono inoculare. Non esiste antidoto e la morte mentale. Opponi resistenza, non farti plagiare. Se non ti vuoi ridurre in uno stato terminale, nella stasi comatosi ti è incapace di pensare. Preferisce lamentarsi se qualcosa gli va male. Agire, pensare e parlare, esplorare ogni capanna del villaggio globale, spalancare le finestre alla comunicazione personale, aprire il canale universale, dare fondo all'arsenale di parole soffocato dalle ragnatele di un'intera generazione di silenzio. Questo è ciò che penso, la vita è la mia scuola, do potere alla parola. Potere alla parola, sì. Dai potere alla parola, tu. Potere alla parola, sì. E vai con potere alla parola nella casa. E allora, benvenuti, bentrovati a tutti i nostri amici, amiche, ascoltatrici e ascoltatrici di Radio Wombat. Siamo sempre nel nostro spazio radio settimanale dedicato alla stampa rassegnata, che è uno spazio nel quale ci siamo ripromessi, come ho detto già più volte, visto che siamo arrivati all'undicesimo pillolo, di fare delle riflessioni su quelli che sono gli avvenimenti della cronaca locale, riferiti in particolar modo all'area metropolitana fiorentina e alle vicende legate all'opposizione popolare all'inceneritore di Case Passerini Firenze e dell'espansione e costruzione del nuovo aeroporto intercontinentale di Peretola. Ovviamente, come chi ci ascolta ormai avrà capito, i nostri commenti, il nostro punto di vista, che speriamo risulti critico e mai scontato, spazia un po' su varie tematiche, quindi anche se in qualche modo il tentativo è quello di concentrarsi e dare per lo più spazio alle vicende legate, come sempre dico in inizio di cronaca, all'opposizione popolare all'inceneritore e all'aeroporto, andiamo a spaziare anche rispetto ad altri temi. Questa settimana, che andremo in diretta lunedì alle 15.30, lunedì 19, e poi in replica il martedì, il mercoledì, il giovedì e il venerdì, sempre alle 15.30, ci occuperemo più o meno di quello che è successo tra il lunedì 12 di marzo e la domenica del 18, seguendo uno schema ormai ricorrente, che è quello di far arrivare i nostri commenti, le nostre notizie con una settimana di ritardo rispetto alla settimana in cui andiamo in onda, proprio per avere il tempo di dedicarsi un attimo, scegliere alcuni articoli che ci sembrano particolarmente significativi, magari a volte fare qualche piccola ricerca che permette di avere uno sguardo un pochino più interessato e informato, e poi renderlo attraverso i nostri microfoni e lo studio diffuso di Radio Wombat. Radio Wombat che, per chi ci ascolta in onde medie, ci trova alla frequenza 1359. Speriamo che siate sempre di più e sempre più interessati alle nostre dirette, alle nostre trasmissioni, che ovviamente non si limitano ai commenti sulla stampa e sulla cronaca locale. Detto questo, avendo fatto più o meno i saluti di rito, vorrei cominciare la puntata di questa settimana da una notiziola apparsa sulla Repubblica del 15 di marzo, notiziola che non ho visto in altri giornali, potrebbe dipendere dalla mia, diciamo, distrazione o scarsa abnegazione, oppure potrebbe dipendere dal fatto che non è stata ancora riportata, o forse addirittura non verrà neanche riportata. Non ci stupirebbe, perché si sta parlando di una notizia relativa all'arma dei carabinieri e relativa a diciamo, un avvenimento, un piccolo avvenimento di cronaca che in qualche modo ha fatto notizia sul finire dell'anno del 2017, che è stata la fotografia scattata da un giornalista, mi pare fosse del Fatto Quotidiano, ma qui mi potrei sbagliare, che aveva fotografato sulla caserma Baldissera dei carabinieri una bandiera nazista. Che appunto si intravedeva da una finestra, fece questa foto, insomma, venne fuori che era stato un carabiniere di stanza in questa caserma che se l'era attaccata più o meno, no, senza più o meno, che se l'era attaccata in camera. La cosa chiaramente suscitò, ovviamente, essendo uscita dalla caserma attraverso questa fotografia e quest'occhio indiscreto digitale lanciato verso la finestra, la cosa aveva fatto notizia e c'erano state, ovviamente, l'arma dei carabinieri aveva avviato un'indagine interna per arrivare ad un eventuale provvedimento disciplinare. Quindi, diciamo, rispetto a questo ci siamo, e vado a leggervi perlomeno, diciamo, sinteticamente la notiziola che compare, come ho detto, dentro la Repubblica del 15 di marzo, all'interno di una notizia, quindi non ha quasi neanche la dignità di essere una notizia, ma è incasellata, cesellata all'interno di un'altra notizia, una notizia quasi di cronaca nera, in cui una donna nigeriana, sostenendo di essere stata derubata, o meglio, essendo stata derubata e sostenendo di aver riconosciuto come aggressori e ladri due somali che stavano seduti in piazza Indipendenza, gli avrebbe tirato dell'acido, quindi notizia praticamente di cronaca nera. All'interno di questa notizia, andandola un po' a scavare, si trova questa: il carabiniere, simbolo neonazista, 3 giorni di consegna. 3 giorni di consegna semplice è la sanzione inflitta ieri al termine del procedimento disciplinare al giovane carabiniere in servizio presso il 6° Battaglione Toscana, che aveva affisso nella sua camera della caserma Baldissera la bandiera della Marina Imperiale Tedesca, divenuta poi un vessillo di gruppi neonazisti. Ne dà notizia il sito GRNET, che sinceramente non conosco, mi perdonerete. La bandiera, visibile dall'esterno, era stata fotografata in dicembre da un giornalista, come ho detto. Il carabiniere era accusato di aver causato l'esposizione mediatica dell'istituzione e del reparto di appartenenza, con grave lesione dell'immagine dell'arma, in relazione alla sua estraneità alle competizioni politiche. Gli avvocati, bla bla bla, ricorreranno per via gerarchica contro la sanzione. Il giovane, sostengono, ignorava l'utilizzo distorto e storicamente errato della bandiera operato da alcuni gruppi estremisti e antidemocratici, di cui non condivide in alcun modo le ideologie. Quindi, quello che in maniera molto semplice volevo portare all'attenzione di tutti era il fatto che, appunto, il carabiniere, di cui si è appunto accusato di aver sostanzialmente causato una lesione nell'immagine dell'arma dei carabinieri, viene sanzionato con 3 giorni di consegna semplice, quindi neanche aggravata. E nello stesso tempo, poi, i suoi avvocati, che sono ben due, ricorreranno contro questa sanzione. Diciamo, l'ho portato all'attenzione diciamo, dei nostri lettori, uno per dire che appunto alla fine si è arrivati a una sanzione contro la quale ci sarà comunque un ricorso e che potrebbe anche essere modificata, ulteriormente ridotta o addirittura non neanche combinata. Lo volevo mettere in relazione con un altro fatto, utilizzando un dispositivo di cui mi sono avvalso più volte nelle mie cronache, spero che non sia tirato per i capelli, quello di comparare appunto notizie, fatti, fenomeni, a volte o anzi spesso dissimili tra loro, però che nello stesso tempo praticando un accostamento tra tematiche apparentemente diverse ma con implicazioni magari simili, ci permettono di riflettere e demistificare o comunque andare più a fondo e gettare uno sguardo che credo possa risultare interessante rispetto a quello che è appunto la società nella quale ci troviamo, ahinoi, a vivere. Quindi, leggendo questa notizia, volevo poi porre all'attenzione quello che invece è stato il trattamento riservato a una maestra di Torino, la signora Lavinia Cassera o Cassera, che è stata oggetto di un linciaggio, anzi è tuttora oggetto di un linciaggio mediatico veramente impressionante, dopo che a Torino aveva partecipato a una manifestazione antifascista e all'interno della quale era stata poi ripresa sia con fotografie sia con video, nel mentre partecipando al presidio, diciamo, si prendeva a male parole con un cordone della polizia. Piuttosto che fare una cronaca che rischia di essere confusa e raffazzonata di quello che è successo, volevo portare all'attenzione dei nostri ascoltatori e delle nostre ascoltatrici il fatto, attraverso le parole che mi sembrano possano fornire sia un riassunto della vicenda ben fatto e sintetico, sia anche un punto di vista molto interessante che è stato tra l'altro in questo periodo la base e ha fatto in qualche modo da piattaforma per tutta una serie di prese di posizione di solidarietà nei confronti di questa maestra. Niente, quindi lo vado a leggere dal sito delle Cattive Maestre, un collettivo di maestre, di compagne, di antifasciste, di antisessiste, sia appunto quindi un collettivo in qualche modo sia femminista, sia di lavoratrici della scuola, lo vado appunto a leggere. Cattiva maestra. Così Gramellini sulla stampa apostrofa l'insegnante che in questi giorni è al centro di una vera e propria gogna mediatica. Dopo essere stata filmata in piazza a Torino lo scorso 20 febbraio mentre manifestava insieme ad antifasciste e antifascisti contro il comizio elettorale di Simone Di Stefano, leader di Casa Pound. Quindi ecco qui entro io, questo lo sto commentando io, il video chi lo volesse vedere lo trova ormai tranquillamente su YouTube perché appunto essendo oggetto di forte contestazione e la macchina del fango lo ha utilizzato a 360 gradi, trova tranquillamente il video su YouTube per farsi un'idea con i propri occhi di quello che è successo e è stato costruito intorno a questo fatto. Riprendo il comunicato. Nei confronti della cattiva maestra, che nel video si rivolge con rabbia alle forze dell'ordine schierate a difesa dell'iniziativa di Casa Pound, il MIUR e l'Ufficio Scolastico Regionale hanno avviato delle indagini, mentre il segretario del Partito Democratico Matteo Renzi ne ha chiesto il licenziamento immediato in un'intervista al Corriere della Sera. Le accuse rivolte alla docente, che motivano la richiesta di licenziamento, sono quelle di essere una persona pericolosa per l'educazione dei ragazzi che le sono affidati. E secondo Gramellini, che concorda con Renzi, sarebbe lei la fascista perfetta, arrogante, violenta, fanatica, con gli occhi strabuzzati e la bocca sguaiata, che bestemmia il buon senso e il senso dello Stato. Negli ultimi mesi di campagna elettorale siamo state dirette testimoni delle conseguenze che la legittimazione politica e mediatica dei partiti neofascisti ha prodotto nelle scuole e nei quartieri delle nostre città. Volantinaggi, banchetti, slogan fascisti sui muri degli istituti scolastici, apertura di nuovi centri di aggregazione, iniziative di protesta contro le programmazioni didattiche non in linea con i loro contenuti, attacchi diretti a insegnanti e a presidi sessantottini, tra virgolette, si sono moltiplicati. La scuola, per Casa Pound e Forza Nuova, è decisamente uno spazio di potenziale aggregazione. dal coinvolgimento nei comitati genitori della scuola primaria al lavoro diretto con gli studenti medi. Il tentativo di diffondere una cultura nazionalista, razzista e sessista attraverso specifiche tematiche scolastiche è esteso a tutti i cicli. Se anche la ministra Valeria Fedeli, in occasione del 70° anniversario della Costituzione, ha ritenuto opportuno riaffermare le radici antifasciste della scuola italiana, distribuendo una nuova edizione della carta in tutte le classi, è forse perché anche nei piani alti di Viale Trastevere ci si sta interrogando sui possibili effetti dello sdoganamento della cultura autoritaria e fascista, peraltro avallati da diversi suoi colleghi di governo. Come insegnanti antifasciste e antirazziste, difendiamo ogni giorno la memoria storica collettiva dentro le nostre aule e ci facciamo carico del ruolo di presidio culturale e democratico che la scuola deve avere all'interno dei territori, una comunità di dialogo garante del rispetto di tutte le diversità. Lo facciamo con gli strumenti e la professionalità che ci danno la formazione e l'esperienza, scegliendo in ogni contesto metodo e pratiche adatti al ciclo scolastico, alle storie e alla sensibilità dei nostri alunni e delle nostre alunne, senza cedere sulla radicalità di contenuti per noi imprescindibili. Fuori dalle classi non siamo più insegnanti, lavoratrici, rappresentanti di un'istituzione, siamo donne, femministe, antifasciste e antirazziste. Non siamo tenute a incarnare 24 ore su 24 e in ogni momento della nostra vita il ruolo del posto di lavoro, né a rispettarne la disciplina. Dietro questo attacco alla professoressa non c'è nessuna difesa dell'integrità della scuola, c'è solo la traccia di un nuovo perbenismo e moralismo che si fa strada nella società e che si intreccia con le pulsioni autoritarie di questa classe dirigente neoliberale. Rifiutiamo la retorica dell'insegnamento come missione, come indole, come propensione naturale al sacrificio in quanto donne. Non siamo necessariamente materne e composte, né tantomeno pacate con i fascisti. Ci sembra gravissima la gogna mediatica alla quale la nostra collega viene sottoposta in queste ore. È un precedente pericoloso la richiesta di licenziamento per le sue politiche. Licenziata perché sguaiata antifascista, quello stesso antifascismo patinato e retorico che qualcuno in campagna elettorale dice di difendere, ma poi è pronta ad insegnarci le buone maniere e a condannare chi non fa dell'obbedienza una virtù. Del resto era proprio Don Milani a ricordare: l'obbedienza a ogni costo? E se l'ordine era il bombardamento dei civili, un'azione di rappresaglia su un villaggio inerme, l'esecuzione sommaria dei partigiani, l'uso delle armi atomiche, batteriologiche, chimiche, la tortura, l'esecuzione d'ostaggi, i processi sommari per semplici sospetti, le decimazioni, scegliere a sorte qualche soldato della patria e fucilarlo per incutere terrore negli altri soldati della patria. Una guerra di evidente aggressione, l'ordine di un ufficiale ribelle al popolo sovrano, la repressione di manifestazioni popolari. L'obbedienza non è più una virtù. Solidarietà all'insegnante torinese in piazza e nelle classi tutti i giorni contro ogni fascismo. Siamo tutte antifasciste, siamo tutte cattive maestre. Ecco, quindi questo è, diciamo, il comunicato che vi ho letto integralmente, che ha fatto da base in qualche modo per tutta una serie di prese di posizione e di, diciamo, attestazioni di solidarietà nei confronti di Lavinia, attestazione di solidarietà che voglio appunto fare anch'io. Farla proprio anche come lavoratore della scuola. Qui è un po' un momento, diciamo, di suspense anche per voi ascoltatori, perché come a volte accade ai cattivi dei fumetti, o non lo so, recentemente anche al cattivo, all'erede nelle nuove serie di Guerre Stellari, di Star Wars, all'erede di Darth Vader, che si è tolto la maschera. È un momento in cui anche da questi microfoni io in qualche modo mi tolgo la maschera. Sono anch'io un lavoratore della scuola, non sono un docente, non sono un insegnante, sono un dipendente di una cooperativa sociale che lavora con le marginalità, le disabilità. Faccio l'educatore nelle scuole di ogni ordine e grado, così è la dicitura. E quindi, come lavoratore della scuola, mi voglio esporre e dire a questo punto che se essere antifascisti, se essere vicini a Lavinia Cassaro per quello che ha subito in Piemonte durante le manifestazioni torinesi appunto dal tribunale, dall'ufficio scolastico regionale, è un reato, allora siamo tutti colpevoli, sono colpevole anch'io e sono un dipendente della cooperativa di Vittorio Sociale e il mio numero di matricola è 4336. Quindi, Matteo Renzi, se proprio vuoi, insomma, licenzia anche me, perché nelle scuole non ci sono solo gli insegnanti e l'attacco che dentro le scuole viene portato al corpo docente, agli operatori della scuola, ai lavoratori, alle lavoratrici della scuola è di ampia portata e lo stiamo subendo un po' tutti, non solo gli insegnanti, ovviamente sugli insegnanti che sono in qualche modo inevitabilmente il fulcro e ovviamente il motore della scuola, l'attacco è più diretto e più esplicito, ma chiaramente tutte le componenti lo stanno subendo, a partire proprio dall'autoritarismo dei presidi, dall'autoritarismo dei manager e da una concezione della scuola azienda, come diciamo ormai dalla fine degli anni 90, in cui i dirigenti e i manager si comportano esattamente come proprietari che dettano una linea di comportamento, a volte si pretende addirittura una linea anche estetica in qualche modo, un'adesione a dei canoni, anche di dress code, come oggi va di moda dire, cioè di una tenuta, un abbigliamento, quasi una divisa. Pena addirittura il licenziamento. E infatti, per tornare all'esempio o perlomeno alla comparazione che ho fatto prima, abbiamo da una parte il carabiniere che espone una bandiera neonazista all'interno della propria caserma, portando alla ribalta e alle cronache e quindi esponendo tutta l'arma dei carabinieri a un danno di immagine che prende 3 giorni di consegna semplice. Dall'altra parte abbiamo un insegnante che non in orario lavorativo, ma fuori dal suo orario, come hanno giustamente messo fortemente in evidenza anche le cattive maestre nel loro comunicato, e quindi diciamo è libera di essere se stessa, partecipa a un presidio antifascista, si rivolge a male parole a un cordone della cenere che in quel momento sta sostanzialmente violando la Costituzione perché è a garanzia dei fascisti e dei neofascisti che ovviamente essendo la Costituzione fondata sull'antifascismo e frutto di quello che è stato il contributo delle forze, di tutto il complesso delle forze antifasciste alla guerra di liberazione e alla liberazione d'Italia dal nazifascismo, in sostanza, in questo rovesciamento della realtà e dei principi costituzionali, si ritrova, diciamo, trattata come il carnefice anziché essere la vittima. Vengono, quindi ci si attacca al fumo delle candele, alle parole, alla descrizione, alla mostrificazione del suo sguardo. Poi, ovviamente, aveva anche una bottiglia di birra in mano, e questo per una che è una maestra, ovviamente diventa motivo di chiaro. Di chiara accusa, no? Niente, quindi questa è un po' la situazione. All'interno di una situazione, come stavo cercando di dire, che è di attacco molto esplicito alla scuola, rispetto alla quale ci sembra importante in qualche modo dire ci sono stati proprio tutta una serie di interventi per dire quello che ci sembra più rilevante, è una bozza di preintesa contrattuale che CGIL, CISL e UIL sono andate a firmare e che proprio in cambio di quelli che saranno degli aumenti salariali ridicoli e risibili, tenendo conto dell'aumento del costo della vita, del caro vita, soprattutto che a Firenze è esploso anche su proprio come fenomeno di cronaca locale, in cambio di questi riceve tutta la diciamo il codice disciplinare del pubblico impiego che è stato già introdotto da Brunetta nel 2008, però lo inserisce o lo vorrebbe inserire come accordo precontrattuale e ha proprio da un punto di vista delle sanzioni e del codice disciplinare è molto pesante. Per esempio, ci possono essere per i lavoratori della scuola dei rimproveri verbali o dei rimproveri scritti, delle multe, delle sospensioni dal servizio con privazione dello stipendio fino a 10 giorni oppure da 11 giorni fino a 6 mesi. Tutto questo può avvenire anche a seguito di condotte che vengono così indicate, condotte non conformi a principi di correttezza nei confronti dei propri superiori o altri dipendenti o nei confronti di utenti o terzi. Per questo tipo diciamo, di reato, di condotta non conforme, si può rischiare multe fino a 4 ore di lavoro che vengono sottratte dallo stipendio. Invece si possono avere sospensioni fino a 10 giorni per falsa dichiarazione, per il rifiuto di sottoporsi a visita medica, per manifestazioni ingiuriose nei confronti dell'amministrazione, salvo che siano espressioni della libertà di pensiero. Ecco, tenendo conto anche della dicitura, io quello che ho detto lo ho letto appunto dai commi degli articoli dal 12 in poi, di questo preaccordo contrattuale sul quale CGIL e CISL e UIL sembrano già tranquillamente essere d'accordo e appunto sono anche concepite proprio nello scrivere in una maniera abbastanza generica da lasciare poi un largo spazio di interpretazione e di arbitrio proprio a quelle figure di cui abbiamo già detto or ora, cioè i presidi e i dirigenti scolastici che assumono un ruolo già assolutamente preminente per tutto ciò che riguarda la vita scolastica e che vanno ad assumerlo in maniera sempre più forte anche come diciamo come giudici interni che è coloro che decidono poi in base a dove si sposta o non si sposta l'accento su un determinato avvenimento, come viene considerato e come può e deve essere sanzionato. Un'altra dicitura, ancora sempre generica, recita che si può procedere a sospensione per atti dolosi che, pur non costituendo illeciti di rilevanza penale, sono di gravità tale da non consentire la prosecuzione, seppur provvisoria, del rapporto di lavoro. Capite bene come le definizioni siano talmente tanto vaghe, però a fronte di possibilità sanzionatorie anche molto forti, che appunto creano una situazione in cui il tentativo evidente e manifesto è quello di andare a condizionare il più possibile il lavoro docente, il lavoro degli insegnanti, facendo appunto riscontro e mettendosi in linea con questa concezione neoliberista dell'istituzione scolastica che concepisce appunto il dipendente come una figura che deve incarnare i valori della scuola. Ora, ammesso che sia poi possibile o facile dire quali sono e quali non sono i valori che la scuola rappresenta o che tutela, che poi sono appunto spesso disparati proprio perché da una parte si è antifascisti, però nel momento in cui fa comodo ad alcune forze politiche, dall'altra parte però si lascia campo a qualcos'altro, si forma un cittadino rispetto a valori, non lo so, per esempio tutta l'attenzione che oggi abbiamo rispetto alle tematiche green o verdi rispetto ai bambini, poi però nello stesso tempo dobbiamo per forza educarli al trasporto privato e ai dettami della società termoindustriale, quindi insomma è anche difficile poi stabilire quale cittadino si deve formare per il domani e quindi a quali valori la scuola deve ispirarsi, ma insomma, nonostante è fatta ferma questa difficoltà, si vorrebbe però che l'insegnante, che l'operatore della scuola incarnasse questi principi e quindi è molto, molto, insomma, molto pesante il tentativo di condizionare il lavoro degli insegnanti. E quindi, insomma, per chiudere su questa cosa, se non l'ho fatta già troppo lunga, anche se spero di avervi dato degli elementi utili di comprensione. Da una parte abbiamo il carabiniere che espone la bandiera neonazista che prende 3 giorni di consegna semplice, dall'altra la maestra Lavinia Cassaro che si espone, ci mette la faccia, si mobilita contro il comizio di CasaPound a Torino, si prende verbalmente con la polizia italiana e viene linciata mediaticamente ex presidente del Consiglio, ma insomma ancora uomo chiave della scena politica italiana, Matteo Renzi, chiede in sostanza pubblicamente il suo licenziamento, scattano le procedure disciplinari. E la maestra viene intanto sospesa e probabilmente perderà il posto di lavoro. Ecco, quindi anch'io sono con Lavinia, numero di matricola 4336, Cooperativa Sociale Giuseppe Di Vittorio di Firenze. Andiamo a questo punto un po' avanti con le nostre cronache. Tiro fuori una cronaca all'inizio di questa settimana dalla Nazione sulla discarica di Firenzuola, di cui abbiamo già parlato in alcune delle cronache precedenti, credo una, due, forse al massimo tre stampe rassegnate fa. Si avvicinano dei momenti decisivi, infatti dice l'articolo Firenzuola, intanto prosegue la mobilitazione dei cittadini anti-Pago, perché Pago è il nome della discarica di Firenzuola, ore decisive per la discarica. Comune e comitato per il no alla riapertura, decide la regione. Praticamente succede che in questi giorni si va verso la scusate, c'è appunto si riunisce, c'è una seduta del Consiglio regionale, ci sarà una mozione che dovrebbe il più possibile, insomma, sbarrare la strada all'ampliamento e alla riapertura richiesta dall'azienda ERA, che è quella che gestisce, appunto, che ha gestito fino ad ora la discarica del Pago. Discarica che, come abbiamo già ricordato, una discarica che era stata aperta provvisoriamente con l'idea di ospitare i rifiuti provenienti dall'area metropolitana fiorentina in attesa della realizzazione degli inceneritori, perché allora si parlava di più inceneritori, con il rallentamento anche attraverso l'opposizione popolare di cui facciamo parte, alla costruzione dell'inceneritore di Case Passerini, il gruppo ERA ha rimesso in moto l'iter per richiedere l'autorizzazione alla riapertura di questa discarica. Chiaramente questa discarica è osteggiata dai cittadini, è osteggiata anche dalle forze dell'area metropolitana fiorentina che si mobilitano contro l'inceneritore, che chiaramente non sono solo contro l'inceneritore, ma sono anche contro le discariche. Quindi, come abbiamo più volte detto, le alternative ci sono anzitutto quella di produrre meno rifiuti, di diciamo in qualche modo rivedere in maniera radicale le scelte produttive e poi anche procedere sicuramente con una estensione profonda delle filiere della raccolta differenziata, del riciclo e del riuso e di procedere verso una forte riduzione sia dell'utilizzo della pratica delle discariche sia ovviamente di abolire completamente l'incenerimento. Quindi c'è un sostegno reciproco tra queste diverse vertenze, e quindi nel dare questa piccola notizia, diciamo, c'è in qualche modo il limite anche della politica, proprio perché non c'è stato un accordo delle forze politiche regionali rispetto a questa questione, quindi la paura del comitato è quella che alla fine, proprio per diciamo beghe di partito e di difficoltà dell'una forza politica con l'altra nel trovarsi d'accordo, ci sarà poi un indebolimento del fronte del no e che non porterà al risultato sperato. Dall'altra parte, però, il comitato continua a lavorare anche dal basso, ha partecipato il 25 febbraio all'incontro tenutosi a Villa Montalvo, primo incontro regionale di quello che vorrebbe essere una rete regionale dei movimenti, dei comitati, degli abitanti in mobilitazione e in lotta sul ciclo dei rifiuti e contro discariche, inceneritori e per le alternative, e nello stesso tempo per il 25 di marzo organizza una giornata di raccolta ecologica per rilanciare anche la propria opposizione alla discarica. Quindi siamo ovviamente dalla parte dei cittadini, delle cittadine, degli abitanti di Firenzuola che vanno avanti con la loro mobilitazione. Questa è stata anche una settimana abbastanza importante per quanto riguarda le vicende dell'aeroporto. Facciamo così, diciamo, prendiamo la nazione proprio di domenica 11 marzo, che apre con un titolo, non mi vergogno a dire, geniale. Perché la nazione che più volte ho ricordato che in questi mesi ha usato sempre, senza particolare creatività, la metafora e la retorica del volo, sempre per sottolineare e enfatizzare ogni passaggio burocratico che secondo loro si avvicinasse alla realizzazione dell'aeroporto, quindi è stato tutto un susseguirsi di si vola, si decolla, via col vento e stupidaggini di questo genere. Questa settimana di domenica si sveglia con un paginone, doppio paginone, centrale di cronaca e dice: Firenze accerchiata si ribella, due punti, la nuova pista serve a tutti. Direi che più che un titolo di cronaca è un manifesto politico, è una vera e propria presa di posizione. Insomma, la cosa chiaramente non ci stupisce proprio perché la nazione non ha mai mancato di portare acqua al mulino diciamo dei trasformatori di Peretola dall'attuale aeroporto che è già, come ricordiamo sempre, fuori legge e, per quanto riguarda il traffico, per quanto riguarda le dimensioni degli aerei, per quanto riguarda le emissioni di rumore, e quindi è già insopportabile, insostenibile per la vita delle popolazioni sorvolate, che sono soprattutto quelle di Quaracchi, di Peretola, di Prozzi e delle piagge, ma che non contenti vorrebbero procedere a un ampliamento e una trasformazione dell'aeroporto in senso di aeroporto intercontinentale. Quindi, come ci ricorda l'infografica del paginone centrale, 245 ettari, l'area su cui si estenderebbe l'aeroporto, una pista di 2.400 metri, ricordiamo sempre parallela all'autostrada, 45 metri di larghezza di pista, 33.000 metri quadri l'ampiezza del piazzale a ovest del nuovo scalo, 40.000 metri quadri l'ampiezza del piazzale est. Poi ci sono 10 gates e 40 check. Questo è il faraonico progetto di aeroporto. Contro questo faraonico progetto di aeroporto, in questa settimana sono andati a depositare ricorsi ai tribunali amministrativi regionali i comuni di Campi, i comuni di Sesto, che l'avevano già fatto e ne avevamo già dato notizia, i comuni di Prato, di Carmignano, i comuni di Signa, i comuni di Calenzano. Quindi c'è una, direi, una, e anche, scusate, e anche Poggio a Caiano. In tutto, se non vado errato, dovrebbero essere 7 i comuni della cintura o dell'area metropolitana fiorentina del quadrante ovest-nord-ovest che vanno a, diciamo, a ricorso contro il decreto di via che l'aeroporto di Peretola ha, diciamo che Toscana Aeroporti per l'espansione dell'aeroporto di Peretola ha ottenuto. Come sempre diciamo, intorno alla fine dell'anno, nel mese di dicembre del 2017, a seguito del decreto Galletti, che ho cercato di spiegare nella precedente puntata di Stampa Rassegnata, facendomi anche forza e puntando i piedi, o diciamo, per usare una metafora, anzi per usare una citazione colta, salendo sulle spalle di un gigante. Il gigante di cui sto parlando è compagno, amico, l'urbanista Antonio Fiorentino, che quest'estate ha riassunto il decreto Galletti che ha permesso all'aeroporto di Firenze di uscire dalla palude nella quale si era arenato, secondo le vecchie procedure di VIA, di valutazione impatto ambientale, attraverso il decreto Galletti che ha riformato la materia di valutazione impatto ambientale, l'aeroporto di Firenze è uscito da questa palude per imboccare una corsia preferenziale privilegiata che lo ha portato ad ottenere l'autorizzazione. Autorizzazione sulla quale però pesano ancora nei contenuti le prescrizioni del Ministero dell'Ambiente. Quindi, in sostanza, cosa succede? Che si obbliga Toscana Aeroporti a procedere, semmai dovrà proseguire l'iter verso la costruzione dell'aeroporto, dovrà tenere conto di un osservatorio ambientale, proprio perché ci sono moltissime prescrizioni al progetto. Ovviamente, cosa è successo? Che Toscana Aeroporti, capeggiata da Corporación America, di cui è proprietario il magnate argentino Eduardo Eurnekian, ha proceduto a espellere dall'osservatorio ambientale tutti quei comuni che non sono particolarmente convinti del sì all'aeroporto, anche per ragioni ovviamente geografiche, perché si ritroverebbero ad essere sorvolati, perché si ritroverebbero ad essere gravati molto più di quanto non siano adesso dall'attuale aeroporto di Peretola. Quindi c'è stata una presa di responsabilità amministrative di questi comuni che hanno in questi giorni, secondo le scadenze opportune, sono andati a depositare i ricorsi. Ecco il titolo della Nazione, ripeto, Firenze accerchiata si ribella, la nuova pista serve a tutti. Ecco, qui si opera poi quel rovesciamento della realtà utilizzando questa retorica del bene comune, facendo coincidere gli interessi privati o di grandi aziende con quelli che sono gli interessi di tutti. Ci sembra veramente un gioco del tutto a carte scoperte che conosciamo abbastanza bene, anche se purtroppo è una retorica che ancora in qualche modo riesce a operare una sua. Insomma, a operare e a raggiungere il suo scopo, cioè quello di far credere che il buon andamento di un'azienda sia poi la chiave per una sana e corretta redistribuzione della ricchezza che il buon andamento dell'azienda permetterebbe. Diciamo che quello che si è ormai caratterizzato come il normale rapporto tra subalterni e manager, proprietari, dirigenti, capitani d'impresa ci dimostra, tra l'altro, anche attraverso la lettura di vicende di aziende assolutamente sane e assolutamente in buono stato da un punto di vista dei bilanci, che non è affatto così, cioè anche aziende nelle quali che lavorano in settori non gravati dalla crisi e che appunto hanno bilanci annuali veramente invidiabili, i propri subalterni, cioè i dipendenti, gli strati più bassi della forza lavoro, che poi spesso è in appalto, se non addirittura in subappalto, non vivono questo miglioramento delle condizioni, non vivono una redistribuzione della ricchezza tale da renderli felici, anche fosse solo da un punto di vista economico e retributivo. Quindi alla buona salute delle aziende non corrisponde lavoro sicuro, non corrisponde lavoro soddisfacente, non corrispondono salari adeguati. E quindi anche, diciamo, da questo punto di vista il re è sempre più nudo e l'economia sulla quale ci vorrebbero della quale ci vorrebbero continuare a convincere, convince sempre meno. Quindi siamo convinti che paginoni come questi comincino ad essere sempre più autoreferenziali. Ce lo auguriamo, perlomeno continuiamo ad augurarcelo e nel tentativo di separare gli interessi dei subalterni da quelli quelli che una volta si chiamavano padroni e che di fatto padroni lo restano anche oggi, è un tentativo che noi continuiamo a fare. C'è ancora altri articoli, per esempio dalla Nazione Cronaca di Prato, aeroporto, volano gli stracci, il ricorso agita i fiorentini, Biffoni, strana reazione, altri ritardi nell'iter e i costi arrivano a 400 milioni. Ecco, utile magari diciamo il discorso dei 400 milioni, sembra che appunto proprio in virtù delle tante prescrizioni al progetto, quello che veniva spacciato anni fa come un investimento nel quale i soldi pubblici sarebbero stati sostanzialmente niente, invece i soldi pubblici arriveranno a 400, sono già intorno ai 400 milioni. 400 milioni di compensazioni, di tutele territoriali, di interventi tesi al ripristino di ambienti naturali che verrebbero comunque irreversibilmente compromessi. E però pur di far finta che l'operazione nuovo aeroporto avrebbe poi un pareggio da un punto di vista ambientale, ci sono già in ballo circa 400 milioni di soldi pubblici. Ecco, quindi davvero l'assurdità, o meglio, anche qui più che l'assurdità, è in perfetta coerenza con quello che continua ad accadere, con quello che caratterizza le economie neoliberiste, nelle quali in realtà non c'è e non c'è mai stato, se non forse come lettura più superficiale o per certi aspetti più retorica degli inizi del 2000, l'idea della fine dello Stato e delle funzioni dello Stato. In realtà il lavoro neoliberista è stato quello non tanto di esaurire e esautorare lo Stato, quanto quello di appropriarsi dello Stato e di indirizzare le politiche in una direzione, direzione che è quella della lotta di classe che viene svolta dall'alto contro i subalterni e contro gli strati più bassi della popolazione, in tutti i sensi, sia come lavoratori che come abitanti, che come utenti dei servizi, che come cittadini portatori di diritti. Quindi lo Stato è stato utilizzato e continua ad esserlo come macchina per sottrarre ai più per dare ai meno, e questo è nel caso delle grandi opere, dell'economia delle grandi opere, delle infrastrutture, è assolutamente visibile, come lo stiamo vedendo diciamo dal sottotitoletto della Nazione. Quindi sappiamo che i costi pubblici per la costruzione di questo aeroporto già sono calcolati intorno ai 400 milioni, e molto probabilmente, se mai dovessero cominciare a sbancare, salirebbero tranquillamente, come abbiamo visto nel caso per esempio, della TAV Fiorentina, che dai 760 milioni d'euro della buca scavata per la stazione Foster, si calcola che se la dovessero completare saremmo intorno ai 2 miliardi e mezzo, quindi già 3 volte rispetto a quello che è stato già speso. Perché è proprio una caratteristica delle grandi opere, quella della variante in corso d'opera, quella sì, appunto, del progetto che si rivede e si riforma. Addirittura c'è all'interno delle forze che da anni si occupano, anche da un punto di vista tecnico, di criticare la logica delle grandi opere, sembra proprio che quello di formulare progetti fumosi in origine, che poi hanno bisogno di molte revisioni, sia proprio una tecnica che fa parte costitutiva della macchina delle grandi opere, proprio volta a rubare e a drenare denaro dalle casse pubbliche per portarlo in quelle delle aziende private. Quindi questi sono molti, insomma, sono diversi gli articoli di questa settimana che si susseguono su questa questione aeroportuale, che però credo di aver più o meno già spiegato e già delineato. Io vorrei chiudere qui questa settimana in una puntatina di una quarantacinquina di minuti che proverò di qui al futuro a rendere il tempo delle mie puntate, fatto salvo l'ultima che ho fatto perché l'assassinio di Idi, a cui Firenze ha risposto con una grande e importante manifestazione, meritava sicuramente più tempo. Ci sarebbero diverse altre cose che proveremo a guardare insieme nelle prossime settimane. Vi saluto, un pugno chiuso, buona lotta a tutti e a tutte, e a risentirci alla prossima settimana. Ciao ciao!